It is later than you think. La fabbrica di Polly si sente da lontano, il sordido richiamo di una vita in batteria. Dietro quei cancelli che cosa nasce prima? L'uovo, la gallina, le penne o i calamai? La fabbrica di Polly produce, non chiude, non chiude. La fabbrica di Polly produce, non cuoce quasi mai. E mentre nella fabbrica di Polly sono entrate le truppe del colonnello Chiute, Cappa e Drago ripassano il francese. We tell you this frankly. If you wish to avoid the excitement and tension of these imaginative plays, we urge you, calmly but sincerely, to turn off your radio now. Allora, ripassiamo i verbi in ir. Ma di nuovo? Dai, Drago, se vogliamo farci ben volere dai mercenari belgi del colonnello Unghiute, dobbiamo imparare bene il francese. Dai, sì. È solo un ripasso. Ma di sì. Che cosa ti lamenti? Pensa se domani ci fosse il compito in classe. No, il compito in classe di verbi francesi, no! No! No! Pimpi! Pimpi! Cosa c'è? Non ha febbre. Ma quale febbre? Non posso andare a scuola. Balle, tu invece ci vai. Ne. Sì, invece. Ne. Sì. Ne. Sì. Ne. Allora vieni qui. Ne. Vieni qui. Ne. Vieni qui. Ne. Allora vai a scuola. Ne. Allora vieni qui. Bebè. Non sono il tuo papà. In realtà, io sono Ganaul. Invece no, Drago, tranquillo, non c'è nessun compito in classe di verbi francesi, quindi stai tranquillo. In compenso però c'è l'esame di lingua dei mercenari belgi. Se non sai dire perfettamente septante, huitante e nonante, ti tagliano la testa e ci giocano a pallone. Quindi è facile però, no? Settante, sì. Settante, mi da tante. Ma come? Drago, devi migliorare le nasali. Ma come? Senti me, septante. Septante. Huitante. Ma bisogna dire la O. Non. Hai capito? Eh bien tu parles. Ma sì. Le pedofili. Sì, ma scusa, ma che accento sarebbe questo? Non è tanto francese, no? Ma che ne so, è tutta scena per impressionare i belgi, no. Tu pensa alle adenoidi e fai hai capito? Sì, allora, verbi in ir. Verbi in ir. Congiuntivo imperfetto del verbo finir. Vabbè, che. Già qui, che o che? No, che. Que je finisse. Que je finisse. Poi? Che tu finisse, scritto finisses, qu'il finisse, no, non finissio. No, qu'il finì, con l'accento circonflesso sulla seconda i. Vabbè, ma come faccio a ricordarmelo l'accento circonflesso? È come il presente indicativo, solo che c'è l'accento circonflesso, dai, è semplice. Sì, primo di classe. Shh, Drago, ascolta. Vedi, il messaggio adesso è in francese. No, ma cosa dici? Ma è sempre in tedesco quella. No, ma... no, c'est français. Mais non, monsieur, ma, c'est pas vrai, hein. Je suis sûr que ça, c'est en allemand, hein? Non, c'est en français. Mais non. Oui, est en français. C'est en français ou est en français? Non, c'est très important, ça. Ah, mais tu parles. Tu parles. Poli. Andare in Francia per Natale per tre giorni o poco più. Nuove facce sul giornale dell'Italia, nulla più. Saltare con slancio il recinto è ancora possibile. E uscir dalla gabbia con rabbia è ancora possibile. La fabbrica di Polly. Mentre il caos regna sovrano nella fabbrica di Polly, i sotterranei della medesima, cioè della fabbrica di Polly, custodiscono un segreto troppo orripilante per essere rivelato. il segreto di la gabbia di Faraday. Signor Faraday! Signor Faraday! Si calmi, signor Faraday! Signor Faraday! Signor Faraday! Signor Faraday! Signor Faraday! La fabbrica di polli. Però, no, Drago, hai ragione, il messaggio è in tedesco, in tedesco. Eh sì, è in tedesco, eh. Ma tu che ne sai, Polo Sbattimento? Uè, io il tedesco non lo capisco, però capisco che è tedesco. Ah, ecco. Cioè, a furia di ascoltare Zwingungen degli Ashra Temple, o Sovisoso dei Cluster. Com'è il titolo? Sovisoso. No, è Sovisoso. No, perché come lo pronunciava il Polo non si capiva, eh. Vabbè, perché quando sono in sbattimento il tedesco lo pronuncio male. Quindi oggi sei in sbattimento. Ovvio. Ma con chi ce l'hai, scusa? Con chi? Con chi non ce l'ho, dovessi chiedermi. Se l'avessi soltanto con qualche Polo, tre o quattro, non sarebbe mica un problema. La vita mi sembrerebbe una meraviglia, E invece? Invece? Invece mi sveglio da sonnellino che sono già incazzato nero. E il primo che passa, ma davvero, il primo che passa, io non resisto. E gli do una beccata, così. Ma stai calmo, stai calmo. Hai mai provato a interrogarti sul perché di queste tue fobie sociali? No, vieni di analisi. Ma sì, vabbè, solo analisi. Chiediti piuttosto come mai tu non riesci a essere amorevole verso gli altri. Scusa, cosa ti hanno fatto gli altri? Beh, se lo sapessi, probabilmente non sarei così incazzato. Ma perché tu, Paul, a differenza di tanti di noi, non sei bipolare. Non è che alterni esaltazione, diciamo, positiva a depressione negativa. No, tu sei sempre incazzato. Tu sei un collerico. Attento come parli, Io il colera non l'ho mai avuto. Ma no, sei un incazzato monopolare. Esisterà nella letteratura medica l'incazzato monopolare? Le nozioni di primo di classe. L'incazzatura monopolare è un fenomeno piuttosto diffuso nelle aree dove la civiltà si è evoluta al punto tale da non essere più sopportabile dalla mente umana. Un esempio di incazzatura monopolare è quella che affligge il noto politico italiano Giacinto Pannella detto Marco. Giusto? Giusto. Campione anche di altri disturbi interessanti dal punto di vista medico e tutti appartenenti all'area semantica del autolesionismus. Sì, voi scherzate, Ma il fatto è che qui di paroxetina non ce n'è più. Ma come? Come? E qui il regime è in via di cambiamento. Non sappiamo ancora se il 15% della fabbrica andrà a un chiute o l'amministratore delegato. E quindi sono in sbattimento. Perché nell'incertezza hanno smesso di darmi la paroxetina, La vita è dura, ti fa paura, alla mattina, paroxetina, inibitore, selettivo, della ricaptazione, della serotonina, paroxetina. La fabbrica di polli. Ragazzi, non preoccupatevi. L'amministratore delegato risolverà tutto, anche col colonnello Unghiute, anche davanti a uno scimmione. L'amministratore delegato non vi lascia da soli, risolverà tutto, anche questa volta, con il 15%. Che cosa succederà adesso? Le parole dell'amministratore delegato vanno prese alla lettera o sono le solite sparate a vanvera di un uomo disperato? Domani forse lo scoprirete. Basta sintonizzarsi a mezzanotte su Radio 3 per il prossimo indesiderabile allestimento de... La fabbrica di polli. La fabbrica di polli produce, non chiude. La fabbrica di polli produce, non nuoce quasi mai. E mi sembra di stare in un film. Barumen.